Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Archiviate prima dell'estate le nuove regole per quanto concerne lo sviluppo delle rinnovabili elettriche con l'omonimo decreto rinnovabili elettriche, appunto, e il quinto conto energia dedicato al fotovoltaico restano invece a tutt'oggi nel limbo provvedimenti attesissimi da ormai molto tempo che definiscano un quadro altrettanto chiaro per quanto riguarda due colonne finora molto trascurate di un sistema energetico realmente sostenibile: l'efficienza energetica da un lato e le rinnovabili termiche dall'altro, come per esempio il solare termico, le pompe di calore, le biomasse e così via. Senza un sistema di regole definito, gli investimenti si fermano o comunque arrancano. Ecco perché questo quadro regolamentatorio deve essere definito al più presto. Prima di chiedere a che punto è il governo su questi temi, ho voluto fare però al sottosegretario un'altra domanda. L'inverno infatti si avvicina e il picco di freddo dell'anno scorso ha messo in crisi il nostro sistema di approvvigionamento e di distribuzione del gas, tanto che si è temuto di rimanere al freddo. È uno scenario che potrebbe ripetersi? Beh, sentiamo com'è andata. Se dovesse ricapitare una punta di freddo come quella dell'anno scorso, la potremo gestire comunque in termini in fondo di conseguenze limitate, come è stata quella del febbraio scorso. Segnalo però che lì il problema principale non fu un problema di approvvigionamenti, perché noi come approvvigionamenti, come quantità di gas disponibile, stavamo bene. Il problema era che il gas depositato negli stoccaggi, il problema è la capacità di estrarre in tempi rapidi dagli stoccaggi il gas. Noi avevamo gli stoccaggi in cui c'era gas, però la possibilità di estrazione agli stoccaggi richiedeva tempi tempi meno rapidi di quelli che ci sarebbero stati utili. E quindi quello che stiamo cercando di fare anche in vista del prossimo inverno è proprio il potenziamento della capacità di estrarre dagli stoccaggi, d'accordo, per ridurre anche quelle conseguenze, peraltro limitate, ma comunque che ci sono state a febbraio scorso. Ecco, non tutti sanno che gli stoccaggi sono praticamente dei giacimenti utilizzati al contrario: si ripompa giù gas e, come da tutti i giacimenti, quando lo si tira fuori bisogna farlo a un certo ritmo, altrimenti si danneggia anche il giacimento. Dunque, passiamo a parlare di efficienza energetica. Lei ci ha ricordato che il piano che avete presentato, diciamo di strategia energetica, prevede di puntare molto sull'efficienza energetica, che va di pari passo abbastanza con le rinnovabili termiche. Diciamo che i due mondi si confondono, si mixano. Ecco, però, da questo punto di vista è più di un anno che si aspetta il decreto sulle rinnovabili termiche. I certificati bianchi non si sa che destino avranno, non si sa bene che destino avranno neanche le detrazioni fiscali del 55%. Di recente, l'innalzamento al 50% delle detrazioni per il 36%, cosa che evidentemente è, diciamo, mossa, diciamo, siete mossi dalla volontà di fare un po' di sviluppo economico, però ha creato una situazione per cui non si capisce perché il buon padre di famiglia dovrebbe ricorrere a procedure complicate e costose come quelle del 55% quando ottiene praticamente lo stesso beneficio col 50%. Insomma, la sensazione è che mentre sull'elettrico, alla fine, siete, come dire, avete preso una decisione per non lasciare tutti nell'attesa, qui sulle rinnovabili termiche l'efficienza non si riesce mai a prendere una decisione. Ma non è che lo Stato, a essere maliziosi, viene il dubbio? Non la vuol fare l'efficienza energetica perché tra tasse, balzelli vari, fa un bel bottino, e poi insomma anche chi vende energia non è proprio contentissimo di fare efficienza energetica? No, mi sento serenamente di escludere questa maliziosa considerazione. Perché tutto questo tempo? No, perché il tema è piuttosto complesso, e però anche perché contemporaneamente abbiamo preso dei primi provvedimenti, perché io vorrei ricordare che intanto il 55% sarebbe scaduto il 31 dicembre scorso. Noi l'abbiamo prolungato prima tutto il 2012 e poi l'abbiamo ulteriormente prolungato fino al 30 giugno 2013. È vero che contemporaneamente abbiamo alzato il 36 al 50, però teniamo conto che questo può avere un effetto volano sull'attività, un effetto sull'attività edilizia, la quale ha, come è noto, un effetto volano complessivo sull'attività economica, che in questa fase di crisi economica ci è sembrato utile mettere questo carburante in più. Mi scusi, ma lei dice per un anno e mezzo adesso sappiamo che c'è il 55%, ma lei sa benissimo che ristrutturazioni significative in un anno e mezzo non si fanno. Qui c'è una linea forte del nostro ministero, che è di renderlo strutturale. Okay. Renderlo strutturale e anche articolarlo, perché poi via via che le tecnologie evolvono andranno modificate le caratteristiche tecniche cui il 55 si applica, andrà insomma modulato via via meglio, ma noi lo vogliamo rendere permanente. D'accordo. Quindi questa è un'indicazione però di politica energetica che mi sento di dare, il Ministero dello Sviluppo Economico lavora in questa direzione. Aggiungo poi che sui certificati bianchi, le diceva, non si sa che fine fanno, come forse come sarà chiaro poi dal documento sulla strategia energetica nazionale che metteremo in consultazione penso già la prossima settimana, lei vedrà che invece i certificati bianchi sono uno dei perni del lavoro che ci promettiamo di fare per l'efficienza energetica. Poi rafforzeremo tutto il campo degli standard normativi, insomma l'efficienza energetica, anzi come vedrà dal documento di consultazione, è l'obiettivo dei quattro obiettivi che abbiamo, dei sette strumenti di azione per raggiungere i quattro obiettivi, perdonatemi, però è forse lo strumento d'azione che riteniamo di maggior rilievo. Quindi diciamo, un po' di nebbia dovrebbe andarsene nelle prossime settimane su questi temi. Assolutamente. Okay. Il decreto poi è in fase di definizione in questi giorni. Abbiamo avuto anche consultazioni con le associazioni e con gli operatori. Credo che lo finalizziamo nel giro, ai primi di ottobre dovrebbe essere pronto. Bene, ci fermiamo qui. Ancora grazie al sottosegretario De Vincenti. A voi tutti un saluto. Buona serata. A domani.